Parlamento di Stefano Folli. Cosa conta la parziale riforma del Senato, che ormai procede spedita, ma è solo al primo passaggio in Parlamento, rispetto alla sconsolante realtà della crescita zero, cioè di un'economia stagnante al limite della recessione? Qui è il nocciolo su cui si gioca il successo o il fallimento della stagione di Renzi e del suo stile di governo. I sondaggi d'opinione continuano a premiare il suo modo di fare scanzonato, il suo dinamismo, ma arriva il momento in cui una straordinaria capacità comunicativa non basta più di fronte alle cifre della realtà. I segnali d'allarme ci sono tutti, ma adesso si avvicina il momento della verità, anche perché si tratta di capire quanto vale la sintonia fra Palazzo Chigi e il Dicastero dell'Economia e quanto invece la crisi sta aprendo un fossato fra i due palazzi. Sarebbe quest'ultimo un rischio che oggi il Paese non può permettersi.